Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Dall'inizio di luglio c'è una buona notizia, visto che ne diamo sempre di pessime. Costa meno telefonare da una parte all'altra dell'Europa, perché sono entrate in vigore le nuove tariffe per il roaming, ovvero i costi che si applicano quando si effettuano o ricevono chiamate dall'estero. All'interno dell'Unione Europea si spenderanno al massimo 24 centesimi al minuto quando si chiama e 7 centesimi quando si riceve una telefonata. Si abbassano anche i costi per gli SMS e soprattutto quelli per il traffico dati. Oggi Salva Danaio fa il punto sulle nuove tariffe, ma anche sui costi per chiamare al di fuori dell'Unione Europea, che restano ancora molto salati. Per cui la domanda che vi rivolgiamo oggi è: farete un viaggio all'estero quest'estate per chi non ha dovuto rinunciare alla vacanza, perché anche questo è un tema ricorrente che affrontiamo, e ha deciso appunto di farla fuori dai confini nazionali? Avete già adottato il piano tariffario che ritenete più conveniente per il vostro utilizzo, quantomeno vi siete informati? Raccontatecelo e noi confronteremo le vostre esperienze con i nostri ospiti di questa mattina. Paolo Centofanti, della redazione di dday.it, che è un importante magazine italiano dedicato al mondo della tecnologia e dell'elettronica di largo consumo. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno a tutti. E benvenuto, anche anzi ben ritrovato, ad Alberto Mazzetti, fondatore e amministratore delegato di SOS Tariffe, che è un portale per la comparazione appunto di tariffe in molti settori, dalle banche alle utilities, ma soprattutto siete molto ferrati nel settore delle telecomunicazioni. Alberto, benvenuto anche a te. Grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo dato una bella rinfrescata oggi con i nostri ospiti anche a Salva Danaio, perché sono molto giovani, per cui sono sicuramente i profili più adatti per discutere con noi di questo argomento, soprattutto con me che sono veramente abbastanza ignorante sul tema, per cui stamattina anch'io devo imparare tante cose, ma ovviamente i microfoni sono aperti anche agli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta. Se ci volete scrivere potete farlo al 349-238-6666 oppure all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete trovarci su Facebook, siamo al profilo salvadanaio-radio24, o su Twitter @salvadanaio24. Prima di tutto questo, un'occhiata ai mercati finanziari. Allora, va un po' meglio adesso Piazza Affari, che è stata abbastanza volatile almeno fino a questo momento, non sapeva bene che direzione prendere. Milano adesso guadagna lo 0,32%, da quando è arrivata la nuova scure di Standard & Poor's. Per Milano giornate un po' più difficili rispetto alle altre piazze europee, adesso invece il tenore è positivo. Andiamo a vedere gli altri listini del vecchio continente. In rialzo di quasi un punto Francoforte, Londra più 0,49%, rimane ancora negativa di quasi un punto Madrid, Parigi più 0,39%. Oggi arrivano molti dati macroeconomici dagli Stati Uniti e teniamo sotto osservazione con grande attenzione appunto gli Stati Uniti, perché ieri Wall Street ha chiuso la seduta su nuovi massimi storici per tutti gli indici. Mercato inondato di liquidità da parte della Banca Centrale Americana, che non ha intenzione, o perlomeno in tempi molto stretti appunto, di tirare i remi in barca. Dopo queste rassicurazioni del numero uno della Banca Centrale Americana, ieri appunto gli indici del nuovo continente, gli indici americani, sono apparsi molto galvanizzati. Vediamo a Milano i migliori titoli oggi su il settore petrolifero: Eni più 2,38%, Saipem più 2, STM più 2,37%, tutto il settore auto in tutta Europa va bene oggi, e quindi Fiat segna un nuovo balzo dell'1,64%, mentre come Standard & Poor's è intervenuta anche sulle utilities italiane, queste ne risentono ovviamente a Piazza Affari e sono tutte in discesa. Enel perde 2,5 punti, Terna meno 2, Enel Green Power meno 2, A2A meno 1,49%, ma il peggior titolo è Telecom, che perde 3 punti percentuali. Ieri lo spread fra BTP e Bund è rivolato a 290 punti base, stamattina ha aperto a 286. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi: telefonare all'estero o dall'estero, quanto ci costa? Questa volta l'essere parte dell'Unione Europea non sarà abbinato soltanto a nuove tasse, politiche di rigore e di austerità. Dal 1 luglio, infatti, nel vecchio continente è molto meno costoso comunicare, connettersi ad internet, fare una telefonata, mandare un SMS. Tutto questo grazie all'introduzione delle nuove tariffe per il roaming, il prezzo da pagare per chi effettua o riceve una comunicazione da o verso un paese straniero. Chi si prepara, ad esempio, a visitare una capitale o ad un qualsiasi altro viaggio all'interno dei 28 paesi, spenderà quest'estate un massimo di 24 centesimi al minuto, IVA esclusa, per chiamare e 7 centesimi per ricevere una telefonata, rispetto ai 29 e 8 centesimi che avrebbe pagato l'anno scorso. Scende da 9 a 8 centesimi il costo degli SMS, ma è quello per il traffico dei dati che riceve la sforbiciata più importante. Si passa da 70 a 45 centesimi ogni megabyte scaricato navigando in internet. Non male nell'era degli smartphone e dei social network. Non va dimenticato inoltre che mantenendo queste tariffe base, ogni operatore sarà poi libero di proporre le formule più convenienti. Festeggia quindi chi vorrà condividere virtualmente la propria vacanza in giro per l'Europa con gli amici e festeggiano in particolare gli abitanti della Croazia e i turisti che vi sono diretti, visto che proprio il 1 luglio il paese è entrato a far parte dell'Unione, beneficiando anche di questo vantaggio. L'obiettivo è quello di annullare del tutto il roaming nell'Unione entro il 2015. Ma mentre in Europa parlarsi diventa sempre più semplice ed economico, le tariffe per il roaming extra UE continuano ad essere salate e anzi si registra una tendenza al rialzo. È bene in questi casi controllare cosa prevede la propria tariffa, in particolare per chi non rinuncia a connettersi ad internet. Il rischio è quello di farsi rovinare le vacanze da un vero e proprio salasso telefonico. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, ed è già pronto Leonardo da Latina, che ha avuto una disavventura telefonica nel corso del suo viaggio in Turchia. Adesso ce lo faremo raccontare. Invece arrivano tanti messaggi da parte di molti ascoltatori. Ce n'è uno che un po' non è molto d'accordo su quello che dicevamo relativamente alla Croazia. Stefano da Padova dice: provate a dare un occhio alle tariffe della Croazia, un furto osceno. Speriamo che appunto questa sia stata una situazione pre primo luglio e che adesso invece le condizioni siano più favorevoli. Volevo cominciare appunto con Paolo Centofanti della redazione di dday.it per capire come mai stiamo andando verso questa riduzione progressiva appunto delle tariffe in Europa, al punto che l'obiettivo è addirittura azzerare la differenza di costo tra le telefonate, diciamo, in territorio domestico e le telefonate all'estero. Ma è un obiettivo che speriamo venga raggiunto presto, anche perché siamo in Europa in una situazione un po' paradossale, nel senso che abbiamo il mercato unico, l'Unione Europea, libera circolazione delle persone e delle merci, ma non dei servizi di comunicazione. Per cui in realtà abbiamo un... Ci mancano tante altre cose, per la verità, sì, ancora abbiamo l'unione bancaria e tante altre, però insomma però si sono mossi abbastanza velocemente, o mi sbaglio, anche in questa riduzione progressiva? Sì, perché il settore quello legato comunque alle telecomunicazioni, ai nuovi servizi di internet, specialmente in mobilità con l'avvento degli smartphone, è uno dei settori con più alto tasso di crescita, e il problema del costo di roaming è un vero e proprio freno alla crescita in questo settore. Il problema è che se noi paragoniamo l'Unione Europea ad esempio agli Stati Uniti, negli Stati Uniti è vero che sono i singoli stati, spesso i mercati delle varie compagnie telefoniche sono anche locali, però funzionano sempre a livello globale, per cui se io faccio un abbonamento telefonico a Los Angeles, se vado a New York pago la stessa tariffa. Lo stesso non succede ad esempio invece in Europa, per cui appunto abbiamo tante compagnie locali, anche se spesso in realtà appartengono a gruppi multinazionali che operano sotto il terreno europeo. Certo, allora all'interno dell'Unione Europea adesso dal 1 luglio si spendono al massimo 24 centesimi al minuto, poi dobbiamo applicare anche l'IVA, perché qua c'è un altro paradosso, che è quello italiano, quando si chiama, e 7 centesimi quando si riceve una telefonata. Paolo, sono delle tariffe buone? Cominciano a essere vivibili, nel senso che se vado per un paio di giorni o tre giorni a Parigi piuttosto che a Barcellona e voglio continuare a usare alcune delle mie applicazioni preferite, non rischio insomma di rimetterci tutto il budget della mia trasferta. Bisogna comunque stare un po' attenti a quello che si usa, nel senso che se devo controllare la mail, utilizzare social network come Foursquare o Facebook per fare il check-in, piuttosto che usare WhatsApp per comunicare, si spendono veramente pochi centesimi di euro. Ecco, anche perché hai fatto bene a precisarlo, perché diciamo che la telefonata oggi è diventata l'ultimo dei nostri problemi. Adesso la Sì, questo c'è. priorità quando si viaggia è collegarci subito su Facebook per far sapere a tutto il mondo dove siamo. Lo dico io per prima che ovviamente ho adottato questo comportamento. Alberto Mazzetti, SOS Tariffe, queste sono le appunto tariffe che abbiamo detto ha stabilito l'Unione Europea, però non è detto che gli operatori, per esempio, del nostro paese possano proporre ai propri clienti anche qualcosa di meglio. Lo fanno? Assolutamente, assolutamente sì. Infatti, le tariffe proposte dall'Unione Europea sono, diciamo, la tariffa che, male che vada, si applica, agli utenti, mentre, se l'utente, è interessato a risparmiare in particolar modo in una regione del mondo, ci sono delle opzioni che ogni operatore ha predisposto per la navigazione, le chiamate e quant'altro. Addirittura ci sono dei mini pacchetti con minuti, SMS e internet incluso, e la grande novità di quest'anno è che appunto sono diciamo diventati molto più convenienti i pacchetti per la navigazione in roaming. Questo è un bene, dato che comunque le applicazioni attraverso gli smartphone, come dicevate giustamente prima, sono ormai usate più che quasi la fonia, gli SMS. Certo, ma a parte conoscere le proposte commerciali degli operatori, è bene partire da un presupposto diverso, cioè capire intanto qual è la località che si raggiunge, che tipo di traffico già dobbiamo immaginare appunto che faremo, oppure è irrilevante questo? No, è importante capire la località che si raggiunge perché ogni operatore ha delle tariffe dedicate all'Europa, agli Stati Uniti e al resto del mondo. È importante anche capire bene le zone perché ci sono diverse zone Europa, zona 2, zona 3, zona 4 che però includono o escludono alcuni paesi a seconda dell'operatore, quindi è importante documentarsi un minimo in più. Con i nostri principali operatori, visto che non ne abbiamo 200, ma ne abbiamo appunto un numero che si contano sulle dita di una mano, possiamo stare tranquilli ovunque, oppure in qualche località europea possiamo avere qualche sorpresa, Alberto. Ma in Europa direi che ormai non ci sono più particolari sorprese, nel senso che ogni operatore ha offerto un pacchetto piuttosto conveniente che include un po' tutto. Bisogna fare attenzione se si esce da Europa e Stati Uniti d'America, che le tariffe possono aumentare molto e non è detto che ci siano dei pacchetti, delle opzioni attivabili. Ce l'hanno gli operatori italiani, mi pare di sì, però quindi insomma Alcuni sì, per chi si esatto. avventurasse oltreoceano sappiate appunto che gli italiani appunto vi possono offrire anche delle opportunità commerciali interessanti. Allora cominciamo subito a sentire gli ascoltatori che così vivacizzano la nostra trasmissione con le loro avventure o qualche volta disavventure. Leonardo da Latina, buongiorno. Buongiorno. Ci dica cosa le è successo in Turchia? Per È successo che ad fortuna, aprile diciamo, di. il disagio è stato solo telefonico, perché lì da qualche tempo a questa parte sono un po' più nervosi per altre ragioni, per cui Sì, ecco. no, io sono stato fortunato perché ad aprile era una situazione un po' rispetto all'attuale, perché il problema di Piazza Taksilis è uscito in questi giorni. Certo. E Allora. città splendida, Istanbul, È vero. bellissima. Mi ero premunito prima di andare lì con il mio gestore telefonico, io ho un contatto business, chiedendo di essere attivato anche per roaming internazionale. Mi hanno assicurato che tutto a posto, dandomi anche un credito da utilizzare appunto per andare ad Istanbul. A cena, la prima sera che ero a Istanbul, mi sono collegato al mio bellissimo iPhone per vedere le cose da vedere, le varie attrattive. Nell'arco di 60 secondi, forse più di meno, poco più di meno, è venuta via la connessione e ho scoperto a distanza di tempo che si era assorbito tutto il credito telefonico. Le prime 24, con un'altra ricarica che ho chiesto all'operatore di farmi, di altre 24, quindi 48 euro sono andati via subito. Le ricariche successive, anche quelle, sono andate via con tre connessioni internet che ho fatto complessivamente in 4 giorni, per un totale di 144 euro di Cioè credito praticamente telefonico. quanto poteva costare un volo per raggiungere Istanbul fra un po', Perfetto, ecco. ma il mio rammarico è stato anche quello di vedere tutti i turisti intorno a me, di nazionalità diversa ovviamente, che andavano con l'iPhone, con il dettore, l'iPad e lo usavano come navigatore, o per vedere le caratteristiche dei musei che andavano a vedere, e io con il mio iPhone era diventato un Poteva pezzo di ferro che non potevo utilizzare. Leonardo, Sì. E quindi insomma, no, ma era un operatore italiano? Non ho capito bene il presupposto di tutta la telefonata. Un operatore italiano, ovviamente, col mio operatore italiano. Posso anche dirlo, insomma, chi è? Non lo so, poi magari mi chiama l'ufficio stampa e mi sgrida. Comunque, di fatto, siccome non sono tanti, insomma, ribadisco, no, non importa dirlo. Io sono diciamo, più famoso. Ah, ecco, diciamo questo a posto. Sono più famoso e tra l'altro, insomma, quindi questa è stata la grossa difficoltà. Io ho fatto anche la contestazione chiedendo che fosse rendicontata in maniera analitica. Questo certo. Pacchetto dati di 144 euro che sono stati assorbiti. Gliel'hanno fatta? Ancora no. Ecco. Leonardo, grazie. Come al solito, Paolo Centofanti, i nostri operatori proprio per trasparenza nelle comunicazioni non brillano e ancora qua, da questo punto di vista, molta strada deve essere fatta. Cosa può essere successo al nostro ascoltatore che comunque era andato via facendo una chiacchierata molto chiara col suo operatore su quelle che sarebbero state le sue necessità di comunicazione ad Istanbul? Probabilmente è successo che l'operatore non ha consigliato una promozione che includesse il pacchetto dati per il suo abbonamento, e quello che è successo è che pagava essenzialmente al consumo. Le tariffe al consumo nei paesi extra UE possono essere elevatissime, possono andare dai 4 euro ma arrivare fino ai 29 euro nel caso dell'Australia, ma secondo alcuni operatori vedo che hanno anche tariffe abbastanza simili da paese a paese, intorno ai 20 euro al megabyte sto parlando. Quindi vuol dire che veramente, se soprattutto vado in navigazione, quindi scarico già delle immagini e si fa presto a raggiungere il megabyte di dati trasferiti, che tra l'altro il conteggio vale sia per quelli in ingresso che quelli in uscita, quindi si sommano. Quindi ad esempio anche se io faccio una bella foto, non so, della moschea a Istanbul e la voglio mandare via WhatsApp, sono dati che viaggiano e contano nel conteggio finale e possono essere svariati euro. Certo. Alberto Mazzetti, allora, ammettendo che ci sia qualcuno pronto a partire per Istanbul domattina oppure magari nelle prossime settimane, perché ancora forse non è il caso di partire allegramente per queste località, che cosa deve fare, cosa deve chiedere appunto al suo operatore per evitare di essere protagonista della stessa disavventura di Leonardo? Ma sicuramente deve chiedere se esistono dei pacchetti specifici, delle opzioni attivabili e nel caso dell'ascoltatore probabilmente ha speso una cifra simile a 10 o 20 euro al megabyte, quindi è consigliabile richiedere proprio un'opzione, o meglio ancora magari informarsi direttamente sui siti degli operatori, dove sono spiegate abbastanza chiaramente, e vedere in che regione si deve andare e vedere quale operazione o quale opzione è attivabile. Allora, intanto, come al solito, i nostri ascoltatori ci stupiscono, perché noi stamattina stiamo concentrando la nostra conversazione partendo appunto dalle novità per quello che riguarda il roaming in Europa, quindi il traffico telefonico appunto entro i confini europei, ma vedo che ci sono alcuni ascoltatori che ci chiedono, visto che il mondo va avanti e cresce molto velocemente, il traffico telefonico è sempre più intenso verso la Cina, e addirittura insomma qualcuno chiede informazioni su appunto le opzioni commerciali per poter conversare tranquillamente con chi abita in quell'area. Un ascoltatore, per la verità, ci dà la sua esperienza: ho un contratto con, vabbè, lo dico, Daily Telecom per telefonare in Cina, 10 euro per 500 minuti al mese. Cosa ne pensate? È una buona tariffa, Paolo Centofanti? Ma secondo me, quando si tratta di diciamo situazioni tra virgolette fisse, cioè nel senso io devo contattare una persona che risiede in un altro paese, la soluzione migliore secondo me è sempre quella di ricorrere a strumenti alternativi rispetto al cellulare, al telefono tradizionale, non so, servizi come Skype, addirittura Skype su Skype attraverso internet su un PC è gratuito. Chiamare con Skype un numero fisso in tutto il mondo a costi veramente bassissimi, dei pochi centesimi di euro al minuto. Quindi quella è sicuramente la soluzione migliore. Poi ovviamente da operatore a operatore, se ci sono delle promozioni particolari per un solo numero, una sola destinazione, io andrei comunque sempre a controllare il prezzo rispetto a soluzioni appunto alternative come il VoIP, eccetera. Sentiamo invece la soluzione che utilizza Savino da Lecco quando viaggia all'estero, e così la commentiamo insieme. Savino, buongiorno, all'800240024, ci racconti un po'. Buongiorno, sì, io mi occupo di telefonia da tanti anni, ma sicuramente voglio permettere una cosa, visto che l'ascoltatore di prima Istanbul ha avuto problemi. Quasi tutti gli operatori ora permettono di mettere un limite al traffico quando si è all'estero, per cui c'è la possibilità in maniera molto semplice di poter impostare una soglia, e quindi oltre quella soglia non si va, quindi non arriva a 1.000 euro di bolletta. Certo, no, quello è vero, però il problema è che Leonardo in realtà quello che contestava è che aveva fatto una micro operazione, aveva già speso parecchi soldi subito. Io sono uscito fuori dal pacchetto con Vodafone, che avevo con Vodafone Internet Passport, di circa 10 secondi ho speso 60 euro, quindi quando si superano le soglie diventa comunque, quando si va oltre certi limiti diventa un problema. Però la cosa migliore, ad esempio, visto che si va in Europa, io ora sto per andare a vivere a Malta, tra le altre cose, ma anche in Croazia, sì, che invidia. Appena si arriva in Croazia, la prima cosa migliore da fare è quella di comprare una bella carta SIM prepagata, non chiedono neanche il documento, uno la ricarica con 20 euro, sta là 10 giorni, telefono a casa, si fa chiamare senza nessun tipo di problema. A noi è successo diversi anni fa, quando potevamo fare vacanze più interessanti, a Kuala Lumpur, aver speso tipo, non so, 200 euro per aver mandato dei messaggi perché era Capodanno, un mio amico che viveva giù mi ha fatto comprare una prepagata con dentro, mi sembra che fossero 20 o 30 euro, io sono stato giù 15 giorni e non li ho nemmeno consumati tutti, per cui il consiglio è veramente quello di dove si va, la prima cosa da fare è comprare una carta prepagata, che in tutto il mondo è sicuramente più conveniente che usare la propria. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, qual è il tema di oggi? Dal 1 luglio sono scattati i nuovi tagli sul roaming, cioè su quello che paghiamo quando siamo in un altro paese europeo e telefoniamo o riceviamo chiamate sul cellulare. Diventa quindi molto più economico connettersi anche ad internet, magari per scaricare, che ne so, una mappa oppure controllare l'email. Tutta questa novità naturalmente la stiamo commentando questa mattina, visto che molti di voi, speriamo, siete in procinto appunto di partire per le vacanze, magari avete scelto di andare all'estero e chiaramente il telefono ce lo portiamo sempre al seguito, al contrario di quello che fa Carmelo Lauricella, che è il nostro assistente alla regia stamattina, che ha detto ma insomma invece di parlare di questo argomento lasciarlo tranquilli a casa per una quindicina di giorni mentre siamo in vacanza. Vabbè, le telefonate canoniche alla mamma, Carmelo, bisogna farle, io l'ho dovute fare anche quando una quindicina di giorni fa sono andata negli Stati Uniti. Detto questo, insomma, a parte le tariffe e lo standard europeo, gli operatori fanno anche qualcosa di meglio, quelli chiaramente italiani, perché noi a quelli ci rivolgiamo, e quali sono i suggerimenti più interessanti da dare prima di partire, insomma cosa dobbiamo fare per non ricevere poi delle brutte sorprese in bolletta, come è capitato appunto agli ascoltatori che ci hanno chiamato nella prima parte del programma. 800 24 00 24, numero verde per le vostre testimonianze, ed eravamo rimasti al caso dell'ascoltatore che dice ma insomma perché non quando arrivate in territorio straniero non vi comprate una prepagata del posto anche per appunto telefonarvi con gli altri compari di viaggio. È una buona idea, Alberto Mazzetti, SOS Tariffe. Sì, assolutamente, parlo per esperienza personale, nel senso che andando in paesi magari del sud-est asiatico, comunque paesi poco occidentalizzati, dove chiaramente la vita costa meno, di conseguenza anche la fonia costa meno, e quindi anche chiamare in Italia con una tessera thailandese, indonesiana o di un paese di questi qui costa veramente poco, e quindi può essere molto conveniente sottoscrivere una SIM del posto. Anche un ascoltatore ce lo dice, buona l'idea della SIM locale, provate in vacanza alle Maldive, beato lui, molto economica. Tornando alla Turchia, che è il tema più gettonato della mattinata, da quello che capisco, Bruno ci scrive: sono tornato l'altro ieri da Istanbul dopo una decina di giorni di vacanza, con 3 euro al giorno avevo 50 minuti di chiamate di internet ed sms illimitati con, vabbè, lo diciamo, Vodafone, perché è un piano specifico appunto di questo gruppo. Non capisco che piani tariffari abbiano gli ascoltatori che ci hanno chiamato prima. E vabbè, evidentemente, Alberto, non tutti sono così ferrati in materia. Non lo so, avrà fatto un abbonamento sbagliato l'ascoltatore precedente, quello che gli è stato prosciugato tutto il traffico nel giro di pochi minuti. Sì, esatto, probabilmente o gli hanno fatto un abbonamento sbagliato o c'è stato qualche errore. Misunderstanding, esatto. Insomma, nella chiacchierata con l'operatore. Mamma, quante telefonate, chi sentiamo? Ah, Flavio da Milano, in questo caso ritorniamo alla Croazia, che però si è adeguata appunto da quest'anno, visto che è da poco è entrata a far parte dell'Unione Europea, ai nuovi standard tariffari. Però 3 anni fa, Flavio, una bella disavventura. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora sì, 3 anni fa sono stato in Croazia e praticamente per 226 minuti di internet ho pagato 2.800 euro. Conveniente, ecco. Esatto. Però l'anno dopo cosa ho fatto? Ho intestato una SIM a una società, mi è arrivata una bolletta di 2.700 euro e non gliel'ho pagata, e ho detto questa facciamo il saldo con quella dell'anno precedente. Ah, ecco, ma lei va in Croazia per lavoro, Flavio, quindi ha bisogno di collegarsi così? Ma vabbè, guardi che se sta su una barca perlomeno un meteo lo deve vedere, come, cioè non è che sta su una barca che... No, ma si figuri, cioè, non la sto contestando, era così una quindi curiosità. Stiamo parlando solo di internet, non è che stiamo parlando di cose particolari. Quindi internet utilizzata pochi minuti al giorno soltanto per la necessario, mi è stato risposto che il costo per kbyte scaricato, che poi non so che cosa significhi, anzi lo voglio, vorrei chiederlo al suo ospite, si paga 0,08 euro. Alla fine però per 220 minuti, dico 220 minuti perché poi c'erano i minuti in cui abbiamo utilizzato internet, 2.800 euro. E quindi lei ancora sta lì a chiedersi come è stato possibile appunto che si verificasse questa storia. Guardi, non me lo sono chiesto perché l'anno dopo... Non ha pagato, la stessa gente. Non ho pagato, quindi... Ma la compagnia che cosa le ha detto peraltro, così per curiosità? Ha accettato questa sua decisione unilaterale, direi? No, è venuto il recuperatore, mi hanno detto che mi staccavano il... ho detto staccatela pure. Va bene, tanti saluti. Grazie Flavio, grazie mille. Paolo Centofanti. Che cosa commentiamo rispetto a questa situazione? 3 anni fa, probabilmente, magari, non so, una stessa situazione oggi non provocherebbe le stesse conseguenze. Un collegamento ad internet in barca a vela per controllare le condizioni meteorologiche per una 15ina di giorni di fila potrebbe portare addirittura a far spendere una cifra analoga? Al tempo sicuramente sì. Primo perché in barca a vela, in acque internazionali, comunque anche nel Mediterraneo, si passa a prendere operatori di ogni tipo, anche per vari fenomeni, diciamo, di atmosferici, che riflessioni. Che peraltro capita agli ascoltatori che ci stanno scrivendo per il traghetto appunto che va in Sardegna, Livorno-Olbia, appunto anche l'anno scorso ci avevano denunciato delle situazioni simili, proprio perché si beccano appunto operatori differenti. E poi appunto dipende dalle tariffe e come vengono tariffate, perché specie un tempo i dati vengono tariffati o a sessione in termini appunto di tempo e avevano tutte le tariffe loro, oppure a consumo, e quindi c'è la tariffa al kilobyte, che sarebbe un millesimo del megabyte per intenderci, e bisogna fare i conti insomma, perché 0,08 al mega diventano una follia. No, cos'era, 0,08 euro al kilobyte o al megabyte? Kilobyte, sì. Anche lì bisogna stare attenti poi, perché magari alcuni operatori specificano il costo al megabyte, in centesimi o in euro, certo. E lì bisogna stare attenti. Infatti, la cosa è fuori, perché 0,08 euro al kilobyte può diventare 80 euro al megabyte, cioè, voglio dire. Guarda, già immagino che, cioè, a me potrebbero vendermi qualunque cosa. Se devo intavolare una conversazione di questo tipo, porto uno di voi due sicuramente a negoziare con l'operatore. Però, comunque, per evitare questi problemi, soprattutto con uno smartphone che potrebbe connettersi automaticamente, specie durante magari la corsa di un traghetto, certo, di notte, però si può acceso, disattivare. Esatto. La cosa importante, di solito di default, è sempre disattivato su quasi tutti i sistemi operativi, comunque assicurarsi che il roaming sia disattivato e non si corrono rischi. Un altro suggerimento che potrebbe sembrare banale, invece non lo è affatto, Alberto Mazzetti: le offerte scadono alla mezzanotte ora italiana, per cui se siamo in Thailandia attenzione anche al piano tariffario scelto, che potrebbe così morire di morte naturale in tempi non previsti, quindi anche qui la disavventura è all'agguato. Sì. Diciamo che molti operatori hanno delle opzioni che si rinnovano con un pagamento giornaliero, e dobbiamo tenere in considerazione che sono tutte tarate sulla mezzanotte italiana, quindi se siamo in Thailandia verosimilmente siamo avanti con le ore e quindi scadrà alle 4 del pomeriggio magari. Non dovrebbero esserci sorprese, perché in teoria per un periodo di tempo queste opzioni giornaliere si rinnovano automaticamente, quindi al massimo, diciamo, pensiamo di aver speso un giorno di opzione, in realtà ne abbiamo spesi due. Allora ritorniamo ai nostri ascoltatori all'800240024. Poi c'è da aprire anche un altro capitolo molto gettonato, vedo, da parte dei nostri ascoltatori, che è quello svizzero, quindi insomma ci sembra un paese che sta alla nostra portata qua dietro l'angolo, invece anche qua bisogna fare attenzione a telefonare su quel territorio. Chi sentiamo adesso? Vorrei sentire Patrizio dalla provincia di Rovigo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Volevo partecipare anch'io a questa discussione, in quanto 2 mesi fa da Sharm el Sheikh, dove a ricevere spendi 3,50 euro al minuto, è lo stesso a chiamare, avendo un telefonino nuovo, uno smartphone da 2 giorni, non ho tolto la connessione dati e mi è costata 80 euro, non avendola mai usata. ho qualche messaggio WhatsApp e basta. E quindi niente, adesso la lezione è stata imparata, adesso si disattiva il servizio per forza. Mentre dal Marocco prendi una tessera delle loro, telefoni in ogni parte per le strade, con 10 euro fai 15 mm-hmm. giorni e te ne avanzano. Oppure chiamare in Tunisia a un numero tunisino, 3 minuti 12 euro. È una cosa inspiegabile. E infatti, Patrizio, grazie per la sua testimonianza. Effettivamente, questa della, come dire, questa indicazione della tessera della carta prepagata è tra le meno gettonate, invece mi sembra proprio, Paolo Centovanti, la più conveniente in assoluto. Beh, sicuramente. Perché non ci si pensa? Boh, che ne Ma so, perché uno magari per il solito sì, pigrizia di dover togliere... insomma, cioè di anche di andare a informare, ma anche di andarsi a informare poi quale tessera comprare, magari uno ce la pensa già, faccio fatica a trovare l'offerta giusta in Italia, figurarsi all'estero, magari andare a guardare in inglese piuttosto che in un'altra lingua, non sa cosa fare. Allora, chi sentiamo adesso? Andiamo a Marco da Ferrara. Buongiorno Marco. Sì, pronto, buongiorno. Ci dica. Anch'io suggerivo la soluzione di comprare una scheda SIM estera. Io viaggio a volte per lavoro, a volte viaggio per motivi personali. Io ho un operatore con contratto e quando andavo fuori soglia mi sono arrivate delle bollette per dei mesi, anche intorno ai 200 euro, anche perché lo smartphone a volte si connette con dei servizi che è difficile disattivare, sono tanti, soprattutto per chi ha... servizi anche di aggiornamento di borse, adesso c'è di tutto, chiuso WhatsApp, chiuso altri sistemi, per cui io andavo spesso fuori soglia, soprattutto con il servizio dati. Informandosi un po', comprando una scheda locale, quando hanno delle offerte molto vantaggiose per lo scambio dati, sono di solito delle flat, anche giornaliere, o con una SIM spagnola spendevo 1,20 euro al giorno, senza limiti. E il vantaggio dei servizi, per esempio, anche come WhatsApp o come Viber o altri servizi, permettono di poter mantenere anche lo stesso numero, quindi non cambia il profilo. E poi ho trovato anche soluzioni più economiche, addirittura di Skype, che permettono di fare delle telefonate anche a dei fissi o a dei cellulari, con dei prezzi anche 10 volte inferiori a quelli di certo. Skype. Marco, lei è, come dire, un consumatore, un utente molto preparato, mi viene da pensare, e questo lo dico perché c'è un'ascoltatrice che ci solleva anche questo problema, a che ne so, a quelle persone che magari vanno all'estero perché hanno necessità, una mamma che va a trovare il figlio che studia fuori, appunto, e che magari non ha tutta questa dimestichezza con il settore tecnologico, intavolare anche con un operatore una conversazione ai fini di ottenere una tariffa conveniente, oppure appunto studiare tutte le soluzioni come ha fatto Marco, è un po' più complicato. Però il tema del flat, Alberto Mazzetti, ce lo, come dire, traduci in termini più semplici, è conveniente appunto magari, ecco, sottoscrivere una tariffa omnicomprensiva? Mi pare che la traduzione, come dire, possa essere questa, no? Sì, esatto. Ma allora, le opzioni che ci sono attualmente in vigore dagli operatori italiani includono un determinato numero di minuti e messaggi. C'è solo un operatore virtuoso, devo dire, qui facciamo anche il nome, dato che è un operatore virtuoso, che è Vodafone, che offre con la Smart Passport per 3 euro al giorno internet illimitato, di cui 500 megabyte a velocità, diciamo, sostenuta, e poi con una riduzione della velocità che però può essere, diciamo, sufficiente per usare WhatsApp o altri servizi che consumano poco. All'estero poi le SIM locali possono includere magari dei bundle di minuti, messaggi, SMS, internet, flat, quindi sono ancora più convenienti magari. E insomma, bisogna impegnarsi anche su questo fronte per chi viaggia molto, soprattutto chi lo fa chiaramente per affari, magari un po' più ferrato e riesce ad individuare la tariffa che è adeguata appunto alle sue necessità. Magari chi invece va in vacanza raramente, sceglie ogni tanto la, come dire, tappa estera, la meta estera, allora magari in questo caso appunto bisogna metterci un pochino più di attenzione, proprio per non fare per fare in modo che la vacanza non sia rovinata da spese inutili come questa. Quindi cerchiamo anche di utilizzarlo, giustamente, il telefono, diceva Carmelo, solo per le necessità. Arianna ci scrive: vorrei aggiungere alla vostra discussione che la questione telefonate dai verso l'estero non è solo legata alle chiamate in vacanza, ma riguarda molto di più, secondo me, chi ha familiari che risiedono all'estero e quindi ha voglia o necessità, giustamente, di comunicare spesso con loro e anche per lunghi periodi, ovviamente. Io vivo in Olanda da 4 anni e certo ci sono Skype o altre modalità, ma non sempre ci si può legare al telefono fisso internet per comunicare con la famiglia. Quindi benvenuti ai tagli alle tariffe. Quindi giustamente noi, come dire, abbiamo preso il pretesto della cronaca, questo taglio alle tariffe appunto in sede europea, per tornare su questo argomento, perché ci sarà un po' di traffico di circolazione appunto di persone in Europa per le vacanze, ma è chiaro che ci sono molti ragazzi che studiano all'estero e quindi è un problema per molte famiglie che ricorre per tutto l'anno, non solo tra luglio ed agosto. Allora, abbiamo sollevato prima la questione delle comunicazioni con la Svizzera, sentiamo Enzo da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci buongiorno. Dica. Allora, il mio problema era questo: io lavoro a Varese e faccio manutenzione dei ponti radio, mi capita molto spesso di andare su a Campo dei Fiori. La zona del Campo dei Fiori, a, diciamo, a 2-3 km da Varese, riceve il segnale della Svizzera italiana, della Svizzera. Quindi alla fine del mese mi arrivano le bollette di 100-120 euro perché, avendo telefonato direttamente, non accorgendomi poi che l'operatore è cambiato, certo, mi sono trovato con delle bollette assurde. E l'operatore non ti dice: no, fermati, cambia l'operatore se non c'è segnale. Tante volte si telefona senza guardare l'operatore sul telefonino. Questo, come dire, è un bel suggerimento che potremmo dare al sistema, quantomeno in questo convulso cambiamento di aggancio ad operatori diversi, che qualcuno ce lo dica quando succede. Quindi magari esatto, uno non può tutte le volte stare lì a guardare invece l'operatore. Io pago un abbonamento ogni 2 mesi e quindi l'operatore deve essere quello. Poi figuriamoci quanto gli operatori possano avere interesse a far sì che questa situazione possa essere trasparente. Enzo, la ringrazio. Sì. Allora, Paolo Centofanti, cosa può fare il nostro ascoltatore per non avere queste sorprese a fine mese? Lui in Svizzera ci lavora e appunto niente, vedo che scuoti la testa, non mi piace molto. No, lì l'unica soluzione è o avere il doppio telefonino o il dual sim. Oppure, banalmente, se vuole tenere l'abbonamento italiano, è semplicemente disattivare la selezione automatica dell'operatore sul cellulare. Su alcuni cellulari è possibile, bisogna andare nelle impostazioni e mettere manualmente l'operatore, selezionare, non so, quello del nostro abbonamento. L'unico svantaggio è che quando non ci sarà copertura il segnale andrà via e non sarà raggiungibile. Però almeno è l'unico modo di essere sicuri al 100% di non incorrere in brutte sorprese. Adesso ci spostiamo verso altre località molto lontane da noi. Ezio dalla provincia di Treviso invece va frequentemente in Russia. Ezio? No, non vado frequentemente in Russia, sono andato qualche volta anche per lavoro, e quando mi è capitato di andare a avere la sorpresa di avere la linea telefonica sospesa per un eccesso di traffico. Tra l'altro io avevo telefonato a 3 dicendo: guardate signori che andrò in Russia per un certo periodo di tempo e ho bisogno del traffico dati, quindi consumerò più del dovuto, più di quello che è il mio normale consumare. Loro non vedevano l'ora di sentirselo dire e quindi adesso vediamo come possiamo fare. No, vabbè. Esatto. Ah no, allora io normalmente io le tariffe, le bollette mensili hanno circa 200 euro al mese, lì solo di un 15 giorni, una settimana, ho speso circa 1.600 euro di telefonate di traffico dati, e loro a quel punto là mi hanno detto: guarda, mi hanno direttamente sospeso la linea. Quindi sono rimasto senza linea, senza telefono, perché il traffico dati era eccessivo nonostante avessi chiamato. Quando sono rientrato in Italia ho chiesto conto, quantomeno che mi venga riattivata la linea, anche perché io ho sempre pagato corrente, ho sempre pagato tutto, senza mai lasciare una volta in sospeso. Mi hanno detto: sì, guardi, lei ha ragione, però noi, siccome il traffico è eccessivo, vogliamo il pagamento in anticipo del 50%. Sì, ma esatto, lo fanno sempre, poi dopo ti promettono chiaramente la restituzione, che anche questa è una pratica veramente commerciale, che dire che è scorretta è poco. Ezio, la ringrazio. Ci metto insieme a lei anche il caso di Daniele della provincia di Bologna, anche in questo caso 2 anni fa in Russia. E a lei cosa è successo, Daniele? Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. 2 anni fa sono stato in Russia, a Mosca. Io non avevo intenzione di fare chiamate o mandare sms, quindi non mi ero posto alcun problema. Anche perché c'è, esatto, anche la situazione di queste persone che magari dicono: no, io faccio un viaggio in totale isolamento, non voglio neanche sentir parlare di telefonate, invece... Invece appena riacceso il cellulare una volta arrivato a Mosca, ho innanzitutto ricevuto delle chiamate da dei numeri russi, che non so per quale motivo siano arrivate, e una dall'Italia. Chiamate a cui io non ho risposto, ho semplicemente lasciato squillare il telefono. Ma nonostante ciò, con queste chiamate mi è stato prosciugato completamente il conto, che era di circa 20 euro. Sì, diciamo che rispetto ai 1.600, 1.800, 2.800 che sono capitati appunto ai suoi colleghi che hanno chiamato prima, qua c'è un po' di consolazione. Però effettivamente, Alberto Mazzetti, qua veramente bisogna stare accorti, solamente a toccarlo il telefono quando si va all'estero si rischia appunto di avere qualche sorpresa sul traffico, sul costo. Sì, sulla Russia abbiamo qualche suggerimento particolare da dare? Ma allora, anche qui la Russia è generalmente considerata come il resto del mondo, tra virgolette, dagli operatori. Ho preso la carta locale quando sei andato, giusto? Io, sì, esatto, ecco. Ho preso la carta locale. E poi un consiglio che do agli ascoltatori è che appunto stare attentissimi a internet, perché anche azioni banali come scaricare la mail piuttosto che vedere il meteo, piuttosto che vedere Facebook, aggiornare qualcosa, magari comporta di scaricare 3, 5, 10 megabyte, non ce ne accorgiamo, e però il costo al megabyte magari è di 10-20 euro. E quindi stavo pensando che ho un BlackBerry aziendale, del quale ovviamente mi disinteresso, proprio sono proprio sfacciata completamente. Una settimana negli Stati Uniti, 20 giorni fa, con tutto il traffico che ho, vabbè, insomma, non oso pensare a quello che ho combinato per l'azienda, che fra un po' mi manderà una lettera di richiamo, speriamo di no, speriamo che il direttore non ascolti. Allora, ritorniamo adesso ad un altro ascoltatore, poi andiamo verso la chiusura, però insomma mi fa piacere che oggi sia stata una trasmissione abbastanza ricca di testimonianze e casi interessanti. Antonio da San Marino, qua sconfiniamo in un altro senso. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Non proprio da San Marino, ma dal confine di San Marino, perché io sono italiano e abito in Italia, ma sono troppo vicino al confine, per cui spesso e volentieri il telefono migra su un operatore sammarinese e i costi mi saltano completamente. Ecco. Si può fare, come diceva appunto il signore lì. Sì, i nostri ospiti di stamattina. Sì, sì, un ospite. Di disabilitare appunto il roaming, però questo è scomodissimo, perché poi certo, quando ti muovi un pochino e poi ne devi capire un po' di telefono. Io, per esempio, bravo Antonio, parole sante. Guardi, se mi dovessi mettere io a fare tutti questi lavori appunto quando sono in giro, figuriamoci che cosa potrei combinare. Paolo Centofanti, allora pure da San Marino ci dobbiamo difendere? Ogni volta che siamo su un confine, con soprattutto uno stato extra, dobbiamo comprare la tessera prepagata anche andando là? Bisogna stare attenti o scegliere un operatore che abbia delle tariffe, perché il problema è che, ad esempio, scegliendo anche uno di quei pacchetti, diciamo, flat, che includono già del traffico, e in teoria uno può anche non preoccuparsi di quello che succede alla rete che ci si connette, in realtà il problema è che tutte queste tariffe hanno diciamo un costo di attivazione, nel senso che, ad esempio, non so, faccio l'esempio, quello di Vodafone costa 3 euro al giorno, il che vuol dire che basta che il telefono mi si aggancia un attimo, ricevo una chiamata e scattano i 3 euro, anche se magari quella chiamata è di 10 secondi, di 20 infatti. Secondi. Allora, visto che abbiamo peraltro toccato tutte le località possibili ed immaginabili, concludo con questa testimonianza di Edoardo, che ci scrive: durante un recente soggiorno in Giappone, in Giappone non potevamo mica farcelo mancare, Wind mi ha debitato 3,50 euro per ogni volta che qualcuno chiamandomi veniva dirottato sulla segreteria, e così anche quando non venivano lasciati messaggi, chiaramente il costo scattava totale 350 euro senza che io sapessi o avessi modo di rifiutare l'addebito. Quindi pronti a partire, Alberto Mazzetti? Dove vai quest'anno? Quest'anno un po' Italia e un po' si vedrà. Hai già studiato tutti i piani tariffari del caso? In Italia sto tranquillo. Paolo Centofanti, adesso a parte conoscere le vostre abitudini, insomma, due suggerimenti prima di salutarci per chi è pronto a partire e non ha minimamente pensato al traffico telefonico quando sarà fuori. Controllare bene tutti i dettagli del proprio piano telefonico, assicurarsi di aver disabilitato il roaming dati, che è quello che poi ci fa spendere di più. E soprattutto, magari non utilizzare il telefono in vacanza, forse la soluzione è migliore. Benissimo, bravo Paolo, bravo. Grazie a Paolo Centofanti, redazione di Day.it, Alberto Mazzetti, SOS Tariffe, Salvadanaio torna lunedì. Buon weekend a tutti.